Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Olimpia di Dario Ricci. Carpenter per Kerr, scontro, calcio di rigore. Parte Kerr, lì, parata ancora buona Kerr, la mette dentro con fortuna, Australia in vantaggio, segna subito lei, Sam Kerr. Non bene, brava, Paul, Bonanzea, poi in porta, Bonanzea sola, Bonanzea il dribbling, Bonanzea! L'Italia con Barbara Bonanzea, 1-1. Cernoia sul secondo palo verso Bonanzea, Bonanzea di testa, sul più bello, facciamo gol ancora con lei, Barbara Bonanzea, 2-1 per l'Italia, bravissime! È stato bellissimo. Ci hanno fatto sognare, ed era appena un anno fa, i mondiali di calcio femminile di Francia 2019, in cui le azzurre, l'Italia del calcio femminile, è stata splendida protagonista. Ebbene, un anno è passato da quella esperienza che aveva acceso le luci, ha riacceso le luci sul calcio femminile italiano, e adesso luci che si sono decisamente attenuate, vuoi anche purtroppo la pandemia che stiamo attraversando. C'è però un libro particolare che prova a riaccendere questi riflettori, nella speranza che quanto prima si riaccendano sull'intero movimento femminile. Il libro è L'evoluzione del gioco e il calcio femminile, edito da Lupi Editore e scritto da una collega e amica che oggi ho il piacere di avere come ospite qui a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Benvenuta Francesca Di Giuseppe. Dario, buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Francesca, giornalista, titolare di un blog davvero particolare, postcalcium.it, che si è costruito grande apprezzamento e credibilità tra noi calciofili. Adesso ti vediamo alle prese con questo volume che è un po' uno spin-off di una vera e propria tesi di laurea, no Francesca? Sì, la mia tesi di laurea, io mi sono laureata all'Università degli Studi di Teramo, Facoltà Scienze Politiche, nel 2004, e avevo sempre questo pallino di volerla pubblicare perché il tema mi interessava la questione sociale. Infatti l'indirizzo con cui mi sono laureata è l'indirizzo politico sociale, e il mio professore di sociologia, Everardo Minardi, all'epoca è stato molto, molto gentile e molto disponibile a farmi parlare di questo tema. Lui in realtà mi voleva far affrontare un altro tema, che era quella della violenza negli stadi. Però siccome io ho un modo di vedere il calcio a modo mio, ho chiesto se potevo parlare di calcio femminile e avevo sempre questa idea quindi di pubblicare la mia tesi, però sai, quella vocina tipo grillo parlante, forse non era il momento, non era l'occasione, non ero pronta io, dovevo fare altre esperienze. E nel 2020, grazie alla Lupi Editore, Jacopo Lupi, che è il titolare di Sulmona abruzzese, ho avuto la possibilità di pubblicarla. È la mia tesi, quindi riferimenti biografici e comunque quanto scritto è riferito all'anno dal 2002-2004, che sono i miei studi. È un approfondimento sociale che parla anche della storia di quello che è il calcio femminile. Ecco, adesso ci arriviamo, non anticipiamo troppi temi, ma insomma l'evoluzione del gioco e il calcio femminile sono due temi che si intersecano, e già dal titolo è esplicito, no? Come ci sia una vena femminile nell'evoluzione del football che non può essere né trascurata né dimenticata, ma anzi deve essere riportata in piena luce. Ecco, c'è un modo, tu che l'hai studiato, chiaramente più di noi, propriamente femminile di intendere il football? Sì, nel senso che la donna non deve negare, non deve rinnegare, soprattutto non deve essere uguale all'uomo. La donna è donna, quindi anche il suo modo di giocare, di entrare in campo è quello. Sono calciatrici e sono donne, quindi anche lo studio parla anche di alcuni aspetti della conformazione fisica della donna. Anche quello è un aspetto di cui va tenuto conto, non va confrontato con l'universo maschile, gli uomini sono uomini e le donne sono donne, però non perché non sono donne non possono giocare, anzi giocano e da parecchi anni. In Italia e nel mondo. Assolutamente, assolutamente. Fin dalla fine dell'Ottocento troviamo eroiche calciatrici in Inghilterra, nella terra d'Albione, esatto. E poi ancor di più i primi prodromi proprio anche a inizio del secolo scorso, degli anni 20, ne abbiamo parlato tante volte a Olimpia, qui tra Alessandria e Milano, no? Alcune coraggiose calciatrici, ragazze che riuscirono a sfidare i pregiudizi del tempo, ma quella contro i pregiudizi è una partita che continua a disputarsi e che non è mai fino in fondo vinta. C'è una poesia che mi piace leggere ai nostri ascoltatori, che in qualche modo ispira anche tutto il libro, no? Una poesia editata nella collana Ispirazioni della casa editrice Pagine. La vado a leggere. La calciatrice si intitola. Seduta su un pallone nel cerchio di centrocampo, davanti a me due pali, una traversa, una rete e un unico desiderio, gonfiarla. Fare gol contro gli stereotipi, fare gol contro i... Come fai a giocare a calcio? Fare gol contro i pregiudizi, fare gol contro chi non ci vede, fare gol per me, per urlare a squarciagola, per piangere, per abbracciare le mie compagne. Sono una calciatrice, amo il calcio e me ne vanto. Ecco, direi che questo testo, questa semplice poesia, è un vero e proprio manifesto che è anche specchio dei contributi che arricchiscono il tuo libro, no? Sì, esatto, esatto. È stata una poesia che ho scritto così di getto, come del resto scrivo io nei miei articoli, e ho avuto anche una menzione al Premio Città di Moscufo nel 2017, e poi ho avuto questa occasione di partecipare a un concorso e la casa editrice ha deciso di pubblicarla in questa collana. Sì, e quello è il discorso, perché purtroppo gli stereotipi esistono ancora, basta guardare anche quello che è successo, insomma, dopo il CODIV, che è il calcio femminile. Comunque non ha ripreso, certo, ovviamente il calcio femminile ha anche altre problematiche da affrontare, non ha la stessa potenza mediatica e economica del calcio maschile. Il professionismo può essere una strada che spero si intraprenda, perché comunque le ragazze lo meritano. Io avevo un mito, ho iniziato a scoprire il calcio femminile guardando Carolina Morace. Come dici poco, nella Hall of Fame, la bandiera del calcio femminile mondiale, direi del calcio di cura, perché ancora oggi è splendida commentatrice, lucidissima per Sky Sport, insomma. Esatto, esatto. Quindi vedere giocare lei, anche per me, ero piccolina, ero adolescente, oddio, una femmina che gioca a calcio. Anch'io mi sono fatta questa domanda da piccola, però poi piano piano ho capito che in realtà sì, perché no? Non è una questione sì di uguaglianza, però è anche vero che se è sempre esistito un motivo ci sarà. Se in Inghilterra hanno giocato la prima partita andata anche in televisione, perché non si poteva fare in Italia. Assolutamente. In Italia ci sono state tante pioniere. E lei, Patrizia Panico, e adesso ci sono le grandi ragazze mondiali. Eh sì, senti, ma ti chiedo da esperta che ha approfondito questo tema, considerando chiaramente le complicazioni di cui già parlavamo e cui abbiamo già fatto riferimento, le difficoltà economiche, ma non è stato un po' anche un piccolo autogol da parte delle stesse giocatrici non voler riprendere con una formula intermedia, che era quella che avrebbe previsto i play-off per portare a termine il campionato? Tutto sommato, questa è la mia opinione, avrebbe garantito un minimo di visibilità che sarebbe stato anche da ponte poi per la ripresa. Sì, probabilmente sì, però secondo me, non lo so, è stato più giusto così. Le ragazze secondo me volevano riprendere a tutti gli effetti e hanno preferito invece fermarsi e ricominciare magari l'anno prossimo in maniera come sempre, da prima del Covid, da prima dell'emergenza. E riprendere normale, come riprendono i ragazzi, volevano riprendere anche loro. Una scelta che comunque va rispettata. Probabilmente avrei detto la stessa cosa. Sarà che per me o è tutto e niente. Quindi io invece sono un po' più per le mediazioni ragionate, insomma. Vediamola così. Senti, in chiusura, il capitolo di questo libro a cui sei più affezionata. Allora, probabilmente quello in cui si parla, il testo, in cui si parla proprio degli aspetti sociali del calcio, perché anche il mio blog Post Calcium è fondato prevalentemente su di quello. Come hai detto tu, è molto particolare, perché io faccio le live, non scrivo i risultati, non parlo delle partite immediatamente dopo, ma parlo tutto quello che c'è prima e dopo la partita. Infatti il motto è: non finisce tutto con il triplice fischio. Tutto quello che è sociale, tutto quello che può uscire anche fuori da una partita sotto il profilo umano, E quello che mi piace del calcio e credo che anche quello che mi fa ancora appassionare al calcio, credo molto in questi aspetti, ecco, altrimenti forse se guardassi solo i risultati, quella vince spesso, quell'altra è penalizzata, l'arbitro, mi sarei già disappassionato probabilmente. Sì, insomma, è meglio guardare a bordo campo per allargare orizzonti e obiettivi. Ed è la stessa prospettiva che abbiamo sfogliando l'evoluzione del gioco e il calcio femminile, libro edito da Lupi Editore. E grazie ancora alla sua autrice, Francesca Di Giuseppe, per essere stata oggi ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Grazie a te Dario e grazie per lo spazio che mi hai dedicato. Grazie. Ora una piccola pausa, poi ancora insieme qui a Sfogliando Olimpia. Olimpia. La musica di Rocky, la colonna sonora del film dedicato al pugilato per antonomasia, ci accompagna in questa seconda parte di Sfogliando Olimpia, perché parliamo di box, parliamo della nobile arte, con un libro che ho qui tra le mani, edito da Blanc, Il maestro e il campione, sottotitolo Una storia di box, ovviamente. E saluto come ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24, l'autrice Luisa Mandrino. Grazie Dario, ciao, buonasera a tutti. Allora, Luisa Mandrino ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, autrice per il cinema, la TV, il teatro e il web, già scrittrice di altri volumi. Sei diventata anche boxer, no? Per l'occasione, per questo bellissimo libro, romanzo, diciamo così. Beh, boxer è una parola un po' grande per me, però ho cercato di capire questo sport per poi poterne scrivere e quindi ho frequentato una palestra di box. Direi che l'esperimento e il tentativo è pienamente riuscito, perché Il maestro e il campione si dipana attraverso pagine, anche c'è poi una bella galleria fotografica, che ci fanno davvero salire nel ring, entrare in palestra, immedesimarci con la storia dei due protagonisti, perché due sono in realtà che si avvicendano tra ring e bordo ring. Sì, perché quella storia di box che queste pagine edite da Blanc ci raccontano è quella di Ciro Converti e Vincenzo Imparato. Ecco Luisa, aiutaci a mettere a fuoco questi due protagonisti, forse il secondo un po' più conosciuto del primo, perché Vincenzo Imparato è stato un nome importante e prestigioso per il nostro pugilato. Sì, Vincenzo Imparato è stato un campione italiano dei pesi medi per diverso tempo, ha combattuto per molti anni, e io anche all'inizio di questa storia conoscevo di più Vincenzo, perché tra l'altro l'avevo anche visto combattere, lo vedevo anche in televisione, insomma era un personaggio conosciuto. Però la cosa che mi ha interessato fare durante la stesura del libro è stata quella di conoscere il suo maestro, perché avevo intuito che poteva essere giusto partire da lì per raccontare questa storia così particolare. E quindi sono andata nella palestra di Converti, che è l'Accademia Pugilistica Vigevanese, che si trova appunto a Vigevano, sotto lo stadio comunale, sai, una vecchia storica palestra caratteristica in tutto e per tutto. Appena sono entrata ero proprio sceso, no? Sai che si dice scendere in una palestra di box, no? Perché ci sono questi scalini. Io sono scesa e sono stata subito affascinata da questa atmosfera e ho parlato subito con il maestro Converti, che mi ha autorizzato a andare avanti in questo lavoro, insomma. Ecco, tra l'altro abbiamo a che fare con una storia che collega nord e sud, perché Vigevano non è il fulcro, uno dei fulcri, ma i nomi Ciro, Vincenzo, Converti, Imparato denotano chiare origini meridionali, no? È anche un punto di fascino di questa storia. Tieni conto che poi a me la box piaceva dal cinema, no? E come e come tanti avevo amato Rocco e i suoi fratelli, ad esempio, no? E ho ritrovato nella storia di Ciro, soprattutto, anche di Vincenzo, però di Ciro, che è arrivato negli anni 60, vigevano da Taranto, molto di quelle atmosfere del film di Visconti, insomma. Eh sì, sì, chiaramente storie in cui la box come sport degli umili per antonomasia si intreccia con la storia sociale del nostro paese, l'emigrazione interna e quindi la mescolanza laddove riusciva nel migliore dei casi fra culture diverse, altrimenti una separazione fin troppo viva, direi quasi forse fino ai giorni nostri. Ma poi si parla tanto di ring, si parla della carriera di Vincenzo Imparato, si parla in particolare di un match che in qualche modo cambia non solo la carriera di questo pugile, ma le vite di uomini e anche la storia della box nel nostro paese. Dici di più, Luisa. Sì, era la sera del 16 di novembre del 1996 e Vincenzo si apprestava a difendere il suo titolo per la prima volta. Era diventato campione italiano a Follonica qualche mese prima, nel mese di giugno, e quindi ha messo in palio la sua cintura e si è trovato come sfidante, quindi si è trovato a dover combattere sul ring con Fabrizio De Chiara, che appunto era lo sfidante ufficiale ed era anche un amico di Vincenzo, perché loro avevano la stessa età e si erano allenati insieme nella nazionale di pugilato, quindi avevano un forte legame, non solo come sportivi, ma proprio anche come ragazzi, come amici. Così si trova ad affrontare Fabrizio De Chiara. Purtroppo questo match avrà un finale drammatico, perché alla dodicesima ripresa, per un KO che ha inferto Vincenzo, Fabrizio De Chiara ha un trauma cranico dal quale non si risveglierà più, verserà in coma e poi purtroppo dopo qualche giorno morirà. Un match dall'esito drammatico, quasi del pugilato di ere precedenti, no? Perché fortunatamente episodi di questo tipo sono sempre più limitati, ma è un match che, appunto, dicevamo, cambia la storia anche del pugilato in Italia, perché da quel momento cambiano anche delle modalità di svolgimento dei match, no? Sì, perché dopo la morte di Fabrizio, anche tra l'altro grazie a un'intuizione del maestro Converti, che cominciò a pensare, no? Ma perché dobbiamo fare arrivare un match fino a 12 riprese, no? Potremmo anche fermarlo prima, perché Fabrizio De Chiara è caduto a terra così poi irreversibilmente alla dodicesima ripresa, e quindi da questo momento i campionati italiani si svolgeranno sulla durata di 10 riprese. Quindi un cambiamento radicale, ma tu indaghi anche tutto il mondo a bordo ring, non a caso nella prima parte del libro c'è anche un medico protagonista, no? Che è quello che poi sviluppa buona parte della sua carriera anche di medico del pugilato, proprio quasi a braccetto con Converti, con una stima e un'amicizia reciproca. Sì, perché mi ha molto affascinato anche vedere che cosa succede tra questi uomini che fanno la box. La box è tutto un mondo, non è solo il mondo del momento in cui c'è il combattimento, no? È un mondo molto particolare. Quindi io, accompagnando Converti in diversi tornei dove lui tuttora porta i suoi ragazzi a combattere, perché lui è ancora maestro di box a Vigevano, ho conosciuto il dottor Sturla, il dottor Mario Ireneo Sturla, che mi è stato di grandissimo aiuto così nelle ricerche e anche nelle atmosfere che ho creato in questo libro, perché è stato poi una figura che ha seguito molto sia Vincenzo che Ciro dopo questa tragedia, che era effettivamente più grande di loro, cioè nessuno di loro si poteva mai immaginare di vivere una cosa così. Tra l'altro poi il tuo libro Il Maestro e il Campione è anche quasi una cartina geografica dei luoghi sacri della box italiana, mondiale e anche lombarda, no? Mi viene in mente il Teatro Principe, che proprio in questi ultimi anni è ritornato ad ospitare le riunioni di box, così come faceva fino agli anni 60 con i più grandi campioni del pugilato italiano. Quindi ecco, di questo viaggio che cosa ti rimane? Beh, Guarda, è stato un viaggio nel tempo dove ho scoperto i grandi campioni anche ai quali si ispirava Converti, come primo tra tutti Nino Benvenuti, ma anche Duilio Loi, anche Sandro Lo Popolo, ed erano i pugili di quella tecnica che Converti ha imparato dal suo maestro, che è stato un grande campione, un campione europeo, Guido Ferracin, e poi ha trasmesso al suo allievo Vincenzo Imparato. E mi è piaciuto proprio raccontare questa specie di passaggio di testimone, no? Perché comunque per un pugile il maestro è sempre una specie di secondo padre, no? E se si crea questa atmosfera è anche facile portare avanti delle regole che ti sono state trasmesse da un maestro precedentemente. Questo è proprio quello che è successo in questa storia, dove ho voluto cercare di tornare indietro anche nel tempo, no? A quando Ferracin nel 48 vinse in Inghilterra il titolo europeo, addirittura andando anche a esplorare chi era stato il suo maestro, che era un famoso pugile di Ferrara che si chiamava Nando Strozzi. E quindi è stato proprio un viaggio che mi ha portato fin quasi all'inizio del Novecento, dove ho notato che la nobile arte cambia poco se è fatta veramente bene, ecco. E allora, davvero io vi invito a seguire Luisa Mandrino in questo splendido viaggio nel libro Il Maestro e il Campione, una storia di box, edito da Blanc, e grazie proprio a Luisa Mandrino per essere stata questa sera ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Grazie a voi, vi ringrazio molto per l'ospitalità e buonasera a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.